in primo piano. Buongiorno, buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli. Come avevamo anticipato ieri, anche oggi cercheremo di darvi un po' di aggiornamenti, soprattutto dai siti dei giornali, perché come sapete oggi i giornali non sono in edicola. La domenica di Pasqua è uno di quei pochi giorni all'anno per i quali, secondo quella che secondo me è un po' ormai una bizzarria del contratto dei giornalisti della carta stampata, appunto i giornalisti della carta stampata non lavorano, ma come avete sentito ieri e come sentite oggi, tutti i colleghi della radio e dei siti invece lavorano, e quindi volevo farvi una piccola carrellata dei siti dei principali quotidiani italiani che poi hanno delle notizie molto simili, praticamente uguali a quelle che avete sentito nel GR, cioè prima di tutto i risultati del referendum in Turchia. Con vittoria per un soffio, scrive per esempio La Repubblica, con il sì al 51%. Adesso il grande tema è se le contestazioni dell'opposizione sulla regolarità del voto avranno un seguito. Naturalmente viene dato conto anche del primo discorso di Erdogan, che ha chiamato il risultato un risultato storico e ha chiesto a tutti di rispettarlo. L'annuncio che ha fatto subito, e che peraltro in tanti temevano, è che ci sarà un referendum per reintrodurre la pena di morte in Turchia. C'è, come avete sentito, anche questa notizia, e anche qui bisognerà poi aggiornare di ora in ora, di questo omicidio in diretta su Facebook, che però è stato fatto a Cleveland negli Stati Uniti. E poi naturalmente ci sono le foto di Sebastian Vettel con il suo trofeo in mano, perché come abbiamo sentito tutti la Ferrari ha vinto con Sebastian Vettel appunto in Bahrain, il Gran Premio del Bahrain, e sui siti c'è il vantaggio che si possono introdurre anche piccoli video, piccoli audio, e in questo caso sul sito di Repubblica c'è l'audio di Vettel che urla in italiano buona Pasqua. Naturalmente moltissimi ricordi, anche in questo caso con video, e sempre sul sito di Repubblica con video e audio, di Gianni Boncompagni, che avete sentito è morto a 84 anni a Roma. E invece il sito del Corriere, ma invece mica tanto, perché le aperture sono esattamente le stesse. La vittoria di Erdogan, che sarebbe in questo momento la percentuale che molti riferiscono è del 51% per i sì, quindi proprio una vittoria di misura, tra l'altro con il fatto che nelle grandi città, quindi a partire da Istanbul e Ankara, in realtà ha vinto il sì, il no al referendum, con anche delle buone percentuali. Come vi dicevo, sempre la notizia di questo omicidio in diretta su Facebook. Tra l'altro l'omicida avrebbe anche confessato di essere un serial killer, tutte cose da verificare. Anche in questo caso sul sito del Corriere della Sera la notizia della morte di Gianni Boncompagni, come vi dicevo, tanti video, tanti audio che ripercorrono i suoi programmi più famosi. Una foto in questo caso qui, Sebastian Vettel tiene in una mano il trofeo e nell'altra la grande bottiglia di champagne che viene data a chi sale sul primo gradino del podio di un Gran Premio di Formula 1. E poi altre notizie e molti video, uno dei più cliccati restano quelli che riguardano la lite di Morgan, che ha lasciato Amici, sapete, è stato sostituito dalla cantante Emma. Il sito del Sole 24 Ore, anche in questo caso l'apertura è sul referendum costituzionale, il titolo: Erdogan vince ma non convince, la Turchia entra nell'orbita medio orientale. Questo è tra l'altro il parere di Alberto Negri, che abbiamo visto anche sul giornale di ieri, sul Sole 24 Ore di ieri, parlava sia della situazione della Turchia che degli scenari che si sarebbero aperti con una vittoria del sì o con una vittoria del no. Tra l'altro Alberto Negri, che in questo momento è a Istanbul, ha anche parlato con Bartolomeo I, che ha annunciato che potrebbe incontrare Papa Francesco al Cairo. Anche in questo caso molti approfondimenti nel senso approfondimenti video e anche photo gallery sulla vittoria della Ferrari, sul lutto nel mondo dello spettacolo, e anche sempre sulla prima pagina approfondimenti su quello che sta succedendo in Corea, perché in questo momento, tra l'altro, in Corea del Nord, perché in questo momento, tra l'altro, il vicepresidente americano Pence è in visita in Asia, quindi in particolare è a Seoul, quindi Corea del Sud, e sarà poi a Tokyo. Vi segnalo anche, tra l'altro so che questa sezione del sito ha moltissimi visitatori, la sezione infodata del Sole 24 Ore, e che nell'approfondimento di oggi è tutto dedicato ai premi Pulitzer, che sono forse i più famosi premi di giornalismo al mondo. In questa infografica viene riassunto appunto con una e si può vedere così in una sola schermata che il New York Times rimane la testata più premiata. Tra l'altro la novità di quest'anno che riguarda noi europei e in particolare l'Espresso è che è stato dato un premio anche a questo consorzio di settimanali di cui l'Espresso fa parte, proprio per le inchieste. Già che insomma eravamo sui siti dei quotidiani, ho guardato anche la prima pagina di El País, e anche in questo caso, che è il principale quotidiano spagnolo, anche in questo caso il titolo è su Erdogan, viene data come percentuale di vittoria del sì il 51,3%, e molto molto molto spazio anche a quelle che saranno le primarie del PSOE, il partito spagnolo, e altre notizie più legate alla Spagna, ma anche quelle internazionali come la Corea del Nord e quello che sta succedendo in Corea del Nord e la visita del vicepresidente americano Pence in Asia. La prima pagina del New York Times, anche in questo caso, l'apertura è dedicata ai risultati del referendum in Turchia. Turkey's leader claims vast new powers, quindi il leader della Turchia adesso avrà poteri ancora più vasti, e poi approfondimenti su quella che viene chiamata la Cuban Missile Crisis in slow motion, quindi viene rivista con una serie di diapositive e di spiegazioni quella che viene definita, naturalmente ricordando la crisi dei missili di Cuba, di cui fu protagonista il presidente JFK, John Fitzgerald Kennedy, e quindi la crisi dei missili cubani in slow motion, quindi a rallenti, perché appunto viene spiegata passo per passo, e viene ricordato anche che il test effettuato dalla Corea, l'ultimo è stato il quinto, e che forse adesso ce ne potrebbe essere un sesto. Vi segnalo, perché mi incuriosisce sempre vedere un po' le scelte che fanno i siti stranieri, in particolare il New York Times, che è uno dei più visitati in lingua inglese. Proprio in prima pagina c'è, per me che sono appassionata di divulgazione scientifica, c'è un articolo molto interessante di Richard Friedman, che scrive spesso di scienza, e che parla di equazioni matematiche, di come a volte nella matematica c'è quella bellezza che chi magari l'ha subita la matematica, soprattutto a scuola, non sempre vede. Il Guardian, che è invece un quotidiano inglese ed è il più visitato, ha un sito completamente gratuito, che è il più visitato in lingua inglese, anche in questo caso l'apertura è sulla Turchia, e la foto è Erdogan con vicino la moglie, di fronte alla sua, quando si è presentato alla piazza dei sostenitori. E anche qui si parla di new presidential powers, nuovi poteri per il presidente. Tante notizie anche che riguardano l'Inghilterra, e vi segnalo per farvi così, per ricordare quanta sempre attenzione c'è per la famiglia reale. Per la famiglia reale in Inghilterra c'è una foto di Lady Diana ancora giovane, con un principe Harry anche lui molto giovane, e lo scoop che sono sicura molto inglesi poi oggi dal sito leggeranno è che subito dopo la morte di Lady Diana in quel terribile incidente nel tunnel dell'Alma a Parigi, Harry ebbe bisogno di uno psicologo, insomma viene considerata una notizia. Le Monde, anche Le Monde ha il titolo principale sulla Turchia. Anche in questo caso la foto è di Erdogan con accanto la moglie che si rivolge ai suoi sostenitori. C'è però in prima pagina anche il messaggio di Papa Francesco durante la messa di Pasqua. C'è gli aggiornamenti sul Gran Premio del Bahrain, anche se auto francesi o pilota francese in questo periodo non sono proprio ai massimi livelli. E poi si torna sull'astronomia, su questa sonda Cassini che sta esplorando, che entrerà nell'orbita di Saturno, e quindi questo fascino delle esplorazioni dello spazio. La Frankfurt Allgemeine Zeitung, il quotidiano tedesco, tantissimo spazio alle elezioni in Turchia, anche perché sapete in Germania ci sono tantissimi turchi, sia di seconda generazione che anche di prima generazione. E quindi tutta la cronaca, il titolo principale è Erdogan gewinnt referendum knapp, cioè Erdogan vince il referendum di misura. Poi molti approfondimenti su che cosa cambia adesso in Turchia. La notizia che abbiamo dato anche, che abbiamo visto anche sui siti italiani, che è già stato annunciato un possibile referendum per reintrodurre la pena di morte. E poi anche qui la foto di Vettel, naturalmente, perché Sebastian Vettel è un pilota tedesco, e a questo proposito grazie agli ascoltatori che mi segnalano che Vettel non ha brindato con champagne ma con una bibita, e secondo Gabriele sono appunto una gattarola distratta. Il fatto è che il Gran Premio, abbiamo detto, si è svolto in Bahrain. C'è il divieto islamico, giustamente, di bere, mi ricordo un altro ascoltatore, di bere alcolici, e da qui l'idea di non brindare con il classico champagne. Mi ero dimenticata tra i quotidiani italiani, non me ne vogliono i colleghi della stampa, era solo finito in fondo a queste stampate, il sito appunto della stampa: al referendum vince il sì, Turchia spaccata, il virgolettato di Erdogan, voto storico, il virgolettato degli esponenti dell'opposizione, brogli. Più potere al presidente, che cosa cambia, di Marto Ottaviani, che è anche una voce che spesso sentite qui a Radio 24. Moltissimi anche gli altri approfondimenti della stampa, e vi segnalo, visto che appunto gli ascoltatori sembrano sapere che sono una gattarola, che c'è anche tutta questa parte del sito La Stampa che si chiama La Zampa, e che ha notizie che riguardano il mondo degli animali, e spesso dei cani e dei gatti. Abbiamo ancora un paio di minuti, poi ci sarà una breve pausa, e quindi passiamo, visto che, come vi dicevo, oggi non ci sono i quotidiani, e allora ne approfittiamo un po' per riguardare magari quello che c'è sfuggito dai settimanali, o che comunque vale la pena di leggere oggi che forse la maggior parte di noi ha un po' più di tempo. E torno sul domenicale di ieri, perché uno degli articoli che non avevamo avuto il tempo di segnalare è quello che segnala i 60 anni della Bollati-Boringhieri, che, a proposito di scienza, è forse una delle case editrici che in Italia ha fatto di più per la divulgazione del pensiero scientifico ma anche filosofico, uno dei testi principali. E lo si vede nell'articolo a pagina 23, è proprio dedicato a Wittgenstein, che è sicuramente uno dei più importanti filosofi tedeschi del secolo scorso. Ve lo segnalo anche perché, come abbiamo detto ieri, dal 19, quindi da mercoledì prossimo dopodomani a domenica 23, ci sarà a Milano la prima edizione di questa fiera dei libri che si chiama Tempo di Libri, e al Planetario, che è uno dei luoghi più affascinanti di Milano, è nel centro di Milano, perché anche in questo caso alla fiera vera e propria, un po' come accade per il Salone del Mobile, che è nel quartiere di Rho, si aggiungono poi degli incontri in città, e il Planetario è proprio in centro, vicino ai giardini di Porta Venezia, dove tra l'altro c'è il Museo di Storia Naturale, bellissimo museo, E venerdì 21 verranno festeggiati i 60 anni appunto di Bollati Boringhieri, e tra l'altro con un dialogo tra l'autrice del libro che ripercorre la storia della casa editrice della casa editrice e due filosofi della scienza, Vincenzo Barone e Giulio Giorello. Ci fermiamo però un attimo per una breve pausa, ci ritroviamo subito dopo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, buon lunedì di Pasqua. Abbiamo detto, facciamo un po' di ripasso o torniamo su quello che abbiamo magari perso della settimana scorsa, visto che oggi non ci sono i quotidiani. E allora vi segnalo sempre dal Domenicale, e tra l'altro trovate ulteriori approfondimenti sul sito www.bolognamedicina.it, che dal 20, quindi dal 20 al 23 aprile, quindi da giovedì a domenica, torna a Bologna il Festival della Scienza Medica. È molto interessante, e qui vi segnalo un articolo di Fabrizio Benedetti intitolato "Dall'antico sciamano al medico moderno", e l'articolo è tutto incentrato, e poi ci sarà un incontro proprio sabato 22 aprile alle 11:30 a Bologna. È tutto incentrato sull'evoluzione della relazione con il paziente, perché, ci spiega Fabrizio Benedetti, le neuroscienze ci dicono oggi quanto l'interazione tra il malato e la rete della struttura sanitaria che lo ha in cura moduli e interferisca sulle vie biochimiche e sui circuiti neuronali che sono il bersaglio dei farmaci della terapia. E sempre dei supplementi domenicali, poi tra l'altro sapete che la lettura del Corriere della Sera è proprio resta in edicola tutta la settimana insieme al Corriere per chi lo vuole, e quindi ne abbiamo parlato ieri, ma non c'è stato tempo di segnalare tutto, e quindi mi ha molto colpita, e magari ci si può anche divertire a farlo in proprio questo esercizio, l'idea di riassumere, della capacità di riassumere anche dei volumi dei classici proprio della letteratura internazionale. E la lettura fa questo gioco e ricorda come nel 1982 alcuni scrittori furono invitati a condensare in 15 righe un capolavoro della letteratura, e ora la lettura ha provato a replicare l'esperimento. Il modello è quello di Italo Calvino, che appunto scelse Robinson Crusoe e lo riassunse così: un naufrago raggiunge un'isola deserta, unico scampato, ha con sé solo pipa e tabacco, dal relitto faticosamente recupera provviste, rum, armi, munizioni, ascia e sega, chicchi di grano, trova anche denaro, a che servi? Ma lo prende, penne, inchiostro e carta, tre bibbie, cani e gatti, si fa un tavolo, una sedia, si mette a scrivere, un bilancio della sua sorte in due colonne, il male e il bene che lo compensa, per cui ringrazia Dio, fa tutto da sé, reinventa l'agricoltura, fa il vasaio, si veste di pellicce, ha un pappagallo, sola voce amica, dopo 15 anni di solitudine una scoperta lo terrorizza, l'orma ad un piede sulla sabbia, tribù sogliono sbarcare a celebrare riti cannibalici, sparando salva una futura vittima, il selvaggio venerdì riconoscente diventa suo suddito, lavora obbediente la terra, studia il Vangelo, altre vittime liberate poi, il padre di venerdì è un bianco, ma spagnolo, dunque nemico, altro pericolo, sbarcano finalmente gli inglesi, portano prigionieri legati, venerdì crede anche i bianchi dei cannibali, sono marinai ammutinati, gli ufficiali salvati recuperano la nave, dopo 28 anni Robinson lascia l'isola. E questo era appunto il riassunto che il grandissimo Italo Calvino faceva di Robinson Crusoe. Tra gli invece le persone a cui la lettura ha chiesto di fare lo stesso esercizio, Chiara Gamberale per Cime Stempestose di Emily Bronte, o Antonio De Benedetti, il critico letterario, per Le notti bianche di Dostoevsky, e vi leggo questo. Pietroburgo è deserta, tutti sono in campagna a festeggiare la primavera. Il protagonista, un uomo dai nervi deboli e dalla fantasia esasperata, ha 26 anni e vive solo. Si definisce un sognatore, nessuno l'ha invitato ad andare in gita. Non è mai stato con una donna, ma ogni giorno si innamora di una lei immaginaria. Eccolo così girare per le strade in cerca d'amore e mistero. Quest'usare la città come serbatoio di emozioni esistenziali ne fa un personaggio che potrebbe essere uscito dalle cucine letterarie del Novecento o persino del 2000. Una sera, in una luce che Ripellino definisce fosforica, incontra una brunetta in cappellino giallo e mantiglia nera. Ha 17 anni e ha già commesso qualche sciocchezza. Vive con la nonna, una cieca, che la tiene prigioniera attaccando la gonna di lei alla sua veste con uno spillone. Lui perde la testa e lei un po' ci sta, ma nella sua vita c'è un altro. Finale con spargimento di lacrime, frascheggio di grande perché ingenua poesia. E insomma, lo scopo forse, oltre a fare il grande esercizio del riassunto, è quello poi di incuriosire, di stimolare a leggere questi grandi classici. Un altro approfondimento legato peraltro alla fiera che dicevamo, il tempo di libri, la lettura lo intitola I 10 comandamenti, perché questa fiera affronterà anche molti temi di carattere religioso e quindi la lettura ha chiesto a 10 studiosi di riflettere sul significato che hanno oggi i precetti, i 10 comandamenti. Quindi ci sono tutti e 10. Mi ha colpito, visto che comunque oggi è lunedì di Pasqua ed è appunto un giorno di festa, Carlo Bordoni, che approfondisce il terzo comandamento: ricordati di santificare le feste. Il titolo del suo commento è Oppressi dal lavoro o dalla noia, serve una pausa per riflettere. Vi leggo una parte. Il terzo comandamento, ricordati di santificare le feste, è forse il meno osservato, nella convinzione che riguardi solo un lontano passato. In effetti è nato, come altri precetti morali, per disciplinare il comportamento. Imposto dalla religione in una società dove il lavoro duro, la legge del più forte e la pratica della schiavitù non riconoscevano alcun diritto se non quello del padrone. Però tutto sommato, insomma, avete seguito sicuramente la vicenda dello sciopero proclamato e peraltro di fatto fallito a Serravalle, l'outlet di Serravalle, perché come forse avete sentito, di oltre 200 negozi poi ieri ne erano chiusi solo 4. Comunque la discussione si è un po' riaperta sull'opportunità di tenere sempre, per esempio, i negozi aperti la domenica. E scrive ancora Bordoni: sarà per questo che si tende a lavorare anche nei giorni di festa, come suggerisce l'inquietante sigla 24/7 divulgata da Jonathan Crary nel libro omonimo, che è entrata nel linguaggio comune: lavorare 7 giorni su 7, ogni ora del giorno. Le statistiche parlano chiaro, lo fanno imprenditori e manager assieme a chi è impegnato nei servizi di pubblica utilità e ai dipendenti dei centri commerciali alla ricerca frenetica di nuovi clienti. Non solo non ci ricordiamo di santificare le feste, ma abbiamo dimenticato anche il significato della festa e il suo senso di liberazione, quello di un tempo diversamente produttivo, necessario per fermarci a riflettere. E poi, visto che tanto è una voce che sentite spesso insieme a Federico Taddia qui a Radio 24, vi segnalo la recensione di Telmo Pievani a un libro che si intitola Plant Revolution, le piante hanno già inventato il nostro futuro, e parla della intelligenza delle piante. E la biologia ci ha dimostrato che i vegetali sono sprovvisti di occhi e orecchie, ma hanno un sistema nervoso che è da 475 milioni di anni riescono a difendersi, competere e comunicare. Secondo appunto questo libro, da loro abbiamo molto da imparare, già ci sono copie biorobotiche che li imitano. Vi segnalo infine invece da Robinson, il supplemento domenicale della Repubblica, una recensione a un libro al libro Il diario di Anna Frank, illustrato da Huck Scarry, che è il figlio di Richard Scarry, sapete lo scrittore per bambini, che l'inventore di Felicità. Il figlio è anche lui un disegnatore e oltre a coltivare l'opera del padre si dedica appunto anche a libri con il suo, e usa un suo tratto personale, e in questo caso la storia di Anna Frank illustrato da Huck Scarry. Tra l'altro Huck Scarry sarà a Tempo di Libri e parlerà soprattutto del padre, con il quale sembra avere un ottimo rapporto, anche se a volte appunto quando un padre diventa così famoso poi è difficile per i figli trovare un equilibrio. Vi segnalo invece dalla Repubblica una amaca di Michele Serra, che poi trovate anche sul sito di Repubblica, è l'amaca di Sabato, che mi aveva colpito moltissimo, ve la leggo perché riguarda la crisi dei missili e anche i missili Tomahawk che Trump ha lanciato sulla Siria, e poi il missile quello potentissimo che ha lanciato sull'Afghanistan. Niente da fare. Passano gli anni e trapassano le epoche, ma i missili rimandano inevitabilmente al culto del fallo e a chi ce l'ha più lungo, e avendocelo più lungo è lui il capo del mondo. Quello di Trump è lungo 9 metri e costa 15 milioni di dollari, quasi mezzo milione di dollari per ogni soldatino islamista incenerito in Afghanistan, perché appunto si calcola che siano stati 15 morti, ma forse anche di più. Quindi 15 milioni diviso 15, no, 30, scusate, 30 morti, quindi 15 milioni diviso 30, mezzo milione a soldatino islamista, di come li definisce Michele Serra. Occhio e croce è un costo esagerato, con mezzo milione di dollari se ne potrebbero corrompere almeno una decina di jihadisti e convertirli alla gloriosa causa della democrazia, che non solo ce l'ha più lungo, ma ce l'ha tutto d'oro. I conti in tasca alla guerra non sappiamo farli. Fossimo grillini potremmo almeno chiedere a Trump che esibisca tutti gli scontrini di quel missile, dal primo bullone all'ultimo chip. Ci limitiamo a sbalordire, da quegli imbelli che siamo, alla notizia che un solo missile, anche se è il John Holmes dei missili, costa come un film di Spielberg, pur essendo composto di un solo fotogramma. Brucia in un istante, insieme ai corpi dei destinatari, anche l'intero budget. Un microsecondo prima c'erano 15 milioni di dollari, un microsecondo dopo non c'è più nulla. Niente si crea, tutto si distrugge. E torno a segnalarvi, anche perché voi la trovate anche in questo caso su internet, l'inchiesta di ieri sulla Stampa sul boom del mercato delle armi, perché i numeri sono effettivamente incredibili, e il titolo dell'inchiesta è "Il gran bazar delle armi, mai così dalla guerra fredda, in testa ci sono sauditi e cinesi, l'effetto Trump sul pianeta" e appunto tutti i numeri di questa escalation, questa corsa agli armamenti. Vi segnalo dal Foglio invece del sabato, che anche in questo caso ha tantissimi approfondimenti, un incontro fatto da Mattia Masneri con Hal Varian, che chiunque abbia studiato economia all'università sicuramente ricorda il famoso manuale di microeconomia sul quale credo hanno studiato la maggior parte di chi ha frequentato una facoltà di economia e commercio. E Hal Varian è chief economist di Google, è stato appunto assoldato da Google, oltre a essere ancora oggi docente a Berkeley. Conosce bene il nostro paese perché ha vissuto per un po' di anni a Siena, e quindi in questa chiacchierata racconta sia di quello che fa per Google, ma anche alcune cose sulle quali ha riflettuto, che riguardano il nostro paese. E vi leggo questa parte. Parliamo di Italia. "Mi hanno detto che da voi il mio manuale ha venduto più di Marx, ma non credo che sia vero", dice Varian. "In Italia c'è stata la Seconda Guerra Mondiale e poi il boom, anni di grande apertura e prosperità. Ma negli ultimi anni c'è una grande stagnazione, stagnazione che c'è in diversi paesi, per carità, ma in Italia particolarmente. Non è un problema economico, potrei dirle che bisogna aumentare la flessibilità del lavoro, è una tipica risposta da economista, ma è un problema politico, non economico, ci vuole una volontà politica. Matteo Renzi stava cercando di cambiare le cose, ma è stato espulso dal sistema. In Italia c'è anche un grande problema demografico, il saldo delle nascite è negativo e questo alla lunga creerà un problema, perché non ci saranno più tutti i lavoratori che servono, a meno di ricorrere a due soluzioni, da una parte l'immigrazione, dall'altra l'automazione". Fine, chiuso qui il virgolettato di Varian, e scrive Mattia Masneri, "due temi spinosi. In particolare c'è stato un dibattito negli ultimi tempi sul fatto che i robot possano portare via lavoro". E risponde al Varian, "già, ed è curioso che se ne parli proprio in Italia, dove si fabbricano ottimi robot. Penso a quelli della Comau che assemblano le auto. È interessante notare che i paesi che hanno saldi democratici più negativi sono anche quelli dove si producono più robot". E ora ci fermiamo un attimo per un'altra pausa sul traffico e ci ritroviamo per un'ultimissima parte di questa rassegna un po' speciale del lunedì di Pasqua. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com vi presenta In Primo Piano. Ancora buongiorno e buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli. Stavamo sfogliando un po' di settimanali per oggi, che forse abbiamo un pochino più di tempo per leggere quello che possiamo esserci persi, e vi segnalo allora la copertina di Internazionale. Il numero è in edicola da venerdì scorso e naturalmente sarà in edicola fino a giovedì. La copertina è dedicata a quella che viene definita la barca senza nome. All'interno un lungo reportage, perché si parte da questo barcone affondato per raccontare raccontare il più grave naufragio mai avvenuto nel Mediterraneo. Era il 18 aprile del 2015, tra l'altro la cronaca di questi giorni ci dice che, anche perché si sta avvicinando l'estate, quindi aumenteranno le barche che partono dall'Africa per cercare di raggiungere l'Europa, in particolare l'Italia. E vi segnalo invece l'editoriale di Giovanni De Mauro su Internazionale, che è dedicato alle elezioni francesi. Ormai manca pochissimo tempo, questa sarà l'ultima settimana di campagna elettorale per appunto le presidenziali francesi. E allora vi leggo quello che scrive il direttore di Internazionale. L'ultima settimana di campagna elettorale francese si annuncia avvincente. Se i sondaggi sono giusti, i due partiti che da 35 anni dominano la vita politica, socialisti e gollisti, potrebbero non arrivare al secondo turno del 7 maggio. Marine Le Pen, del Front National, è in testa. Considera una minaccia all'immigrazione, propone l'uscita dall'euro, dialoga con Vladimir Putin. Forse se la vedrà con Emmanuel Macron, che abbiamo visto proprio ieri, c'era una lunghissima intervista sul Sole 24 Ore di Marco Mussanea, Emmanuel Macron. Candidato né di destra né di sinistra, parole sue, che vuole assumere 10.000 nuovi agenti di polizia, 5.000 nuovi insegnanti, costruire più carceri e riformare le pensioni. A sinistra il socialista Benoît Hamon sconta gli errori della presidenza di François Hollande, suo collega di partito, mentre Jean-Luc Mélenchon, ex socialista sostenuto dai comunisti, è al terzo posto in rimonta. Mélenchon è favorevole al diritto di voto per i residenti stranieri, a tassare le transazioni finanziarie e all'uscita dalla NATO. Gli avversari lo accusano di essere ambiguo sulla Siria. I candidati trotskisti sono due: Nathalie Arthaud, insegnante di Louis-Dreyfus, e Philippe Poutou, operaio del nuovo partito anticapitalista. A destra, il gollista François Fillon è stato travolto dallo scandalo che ha coinvolto la moglie Penelope, pagata per 10 anni come sua assistente parlamentare, senza esserlo mai stata. Chiudono la lista i candidati di partiti sovranisti e anti-europeisti come François Asselineau e Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle di Résistant, che si proclama difensore dei territori rurali e di un'ecologia umanista, Jacques Cheminade, omofobo, negazionista climatico, forte sostenitore dell'uscita dall'euro e della colonizzazione della Luna. Con tutti questi candidati, i francesi sono diventati esperti di strategia politica e fanno complicati calcoli, non per capire come far vincere i loro favoriti, ma per votare in modo che non vincano gli altri. E questo era appunto Giovanni De Mauro. Vedremo, molto attesa queste elezioni in Francia. Vi segnalo anche da Internazionale un articolo apparso su Le Monde che ci riguarda, perché si intitola Chi ha paura del lupo, ed è un articolo di Audrey Garrick che racconta come il governo italiano, ne abbiamo sentito parlare tanto, vuole autorizzare l'abbattimento controllato dei lupi perché sono troppi e attaccano gli altri animali. Però la giornalista di Le Monde è andata soprattutto in Abruzzo, ma anche in Lazio e Molise, e ha sentito anche la voce di alcuni allevatori che non considerano questa la soluzione giusta. È un lungo articolo che trovate appunto su Internazionale di questa settimana. C'erano molti approfondimenti anche naturalmente sulla Turchia, però a questo punto, a urne chiuse e voto e risultato più o meno certo, aspettiamo il prossimo numero di Internazionale per avere altre traduzioni da altri quotidiani turchi, che purtroppo se no ci sono inaccessibili. Vi segnalo, visto che abbiamo parlato di come il Guardian dedicasse un po' di spazio alle esplorazioni dello spazio, sempre su Internazionale un articolo tradotto dalla rivista New Scientist, che è una rivista britannica, e si intitola Gli esploratori del futuro. Propulsione al laser, sonde che rimbalzano, carburanti venusiani. La NASA, l'agenzia spaziale americana, investe anche nei progetti più fantasiosi per rivoluzionare l'esplorazione del cosmo. Da Sportweek, il settimanale della Gazzetta dello Sport, vi segnalo la copertina, che è dedicata a Maria Sharapova, che compie 30 anni, è originaria della Siberia, dove è nata nel 1987, vive però in Florida e sapete che è stata messa fuori gioco da un'accusa di doping, però ora sta per tornare in campo e la Gazzetta dello Sport ripercorre la sua vita di campionessa. La copertina invece di 7 è dedicata a Barbara Iatta, confessioni della signora che custodisce i tesori del Papa, perché da 3 mesi questa decisissima signora è la prima donna a dirigere i musei vaticani. Ha anche 3 figli, quindi è una donna con 2 lavori, quello di mamma e quello appunto di operatrice culturale prima e ora direttrice dei musei vaticani, e sono già molti, come del resto a me è capitato di recente, come chi ha visitato i musei vaticani ha sicuramente potuto notare, sono già molte le novità che ha introdotto. È una, questa è una dei più grandi musei al mondo, con un patrimonio che veramente spazia dall'arte sacra ovviamente all'arte contemporanea, e che si può sicuramente ulteriormente valorizzare e rendere anche più fruibile, perché non è soltanto quello che il museo contiene, ma anche la possibilità di visitarlo con meno difficoltà possibili. Da 7 vi segnalo anche un articolo che a me è piaciuto moltissimo di Luca Bergamin, che racconta la casa di cura che rimette in forma i ghepardi. Perché in Africa ci sono, in particolare in Namibia, ci sono molti di questi animali bellissimi che sono feriti dagli allevatori e dai bracconieri. E in questa casa di cura vengono nutriti senza che ci siano contatti con l'uomo, poi recuperano le forze in un'area protetta della savana e poi vengono liberati. Vi segnalo invece dal venerdì, che dal venerdì è il supplemento settimanale della Repubblica, la copertina è dedicata a Daniel Pennac, il titolo è Ritorno a Belleville. Naturalmente in questi articoli che gli dedica poi il venerdì all'interno, con Fabio Gambaro e Anaïs Ginori e Bernardo Valdi, che sono corrispondenti, in particolare Anaïs Ginori da Parigi di Repubblica da tanto tempo, viene sollecitato Pennac soprattutto appunto sulle elezioni. Tra l'altro si parla di Belleville perché era il quartiere di Parigi dove era ambientato anche uno dei romanzi più famosi di Pennac, che era il signor Maurissen, che è questo personaggio stupendo che di professione fa il capro espiatorio e è un antieroe naturalmente. Adesso uscirà un libro dopo 20 anni, con una nuova avventura di questo antieroe di Daniel Pennac, ed è stato appunto lo spunto per parlare con un francese delle prossime elezioni francesi. Vi segnalo la copertina dell'Espresso, che è in edicola da ieri con la Repubblica, il gasdotto dei regimi, quindi una nuova inchiesta, e giustamente l'Espresso ricorda quello di cui parlavamo prima, cioè dei giornalisti dell'Espresso che insieme ad altri giornalisti europei hanno vinto il premio Pulitzer per l'inchiesta sui Panama Papers. Abbiamo ancora meno di un minuto e vi segnalo allora la copertina di Repubblica, che è dedicata a Anna Roche, che è stata eletta migliore chef dell'anno. Lei ha alle spalle una carriera diplomatica, ma poi è passata ai fornelli, e Lisa Korva ci racconta, è slovena Anna Roche, ha 44 anni ed è appunto la best female chef del 2017. La copertina invece di Io Donna è dedicata a Micaela Ramazzotti, un'attrice che è stata protagonista già di molti film pur essendo molto giovane, e dice: le eroine mi fanno paura, adoro le donne inadeguate, insicure, piene di difetti, dite che mi identifico. Ecco, era l'ultima segnalazione di questa rassegna stampa un po' così anomala. Domani torna 24 mattina, torna Alessandro Milan. Ancora un buon lunedì di Pasqua da Giulia Crivelli, dopo aver ringraziato Peter Bescapè in regia, e noi ci risentiremo poi sabato con la rassegna internazionale e domenica con quella dei quotidiani italiani.